medesima reza che mi battesima. Prima mi pesi ma si medesima e me se piango resina. Belli presi ma mal visti, cresi fa gli artisti, ora lesina. I mesi spesi e medita sul declino dell'integrità, in vino verità, sono eterea. La mia identità rivendica l'identità, ma la realtà che resta identica, ad anni faccia autentica. La tua predica non m'ha scosso, sebbene l'ha nascosto, lamentando di chi merita l'eternità. La rivivo ad ogni passo, è diventato un mostro con cui divido il pasto. L'ennesimo discorso per essere vivi, l'essere vili, non servili. Ignoranza è da asporto, spegni quella TV e prendi sul cappotto, vediamo dove arrivi, l'ennesimo cappotto. E quando morirò diranno, è un grande fino ad allora. Silenzio imbarazzante, resto tale quale, io devo parlare, ma che gigante, l'ennesimo ignorante. E quando morirò diranno, è un grande fino ad allora. Silenzio imbarazzante, resto tale quale, io vivo alla grande, ma che gigante, sono l'ennesima ignoranza. E riparte per l'ennesima volta con la medesima fotta. Non vedo ancora una svolta ma tengo botta. Quello che scrivo resta aria, quindi evapora. Ma senza io non vivo in questa favola. E sarà l'ennesimo respiro che dà vita alla parola. Dallo stomaco spingo il cuore dritto in gola, con le rime che si imbossessano di me. Mi divorano se non sprigiono queste mine. Scalo cime, vette anonime, intime, anime, come vittime, sempre in lacrime. Finché ci convivi non saranno mai le ultime. Evitarle potrebbe essere inutile. Faccio parte di una stirpe di scrittori seriali. Ho fatto le scuole grosse, non i corsi serali. Ho due fan, mia madre e mia sorella, ed è tutto dire. Non m'affanno più l'ennesimo, e per chi vorrà sentire. E quando morirò diranno, è un grande fino ad allora. Silenzio imbarazzante, resto tale quale, io vivo alla grande, ma che gigante, l'ennesimo ignorante. E quando morirò diranno, eri un grande fino ad allora. Silenzio imbarazzante, resto tale quale, io vivo alla grande, ma che gigante, l'ennesimo ignorante. Sono su un branco di lupi ed un precipizio, e non so perché ho la sensazione che sarà solo l'inizio. Riparto ancora senza nessun indizio, l'ennesimo ed inutile tentativo fittizio. Mi toglierò uno sfizio, non mi servi più, non mi servi tu, donna a mezzo servizio. E se sono tuo funerale è finita male, scrivo l'elogio funebre, peccato veniale. Scavo fossi con la penna nel destino, come fossi la pena inflitta dal becchino. Ci seppellisco l'ennesimo pezzo di merda, anche sto disco lo battesimo. Questa rima è tremenda, segue il trend ed io farò 31. Te lo ripeto ancora, segui me, segui nessuno. Appurato questo, ecco, l'ennesimo avvertimento. La mia rima è gratis, ora pagatemi il silenzio. E quando morirò diranno, è un grande fino ad allora. Silenzio imbarazzante, resto tale quale.